Capitolo 20. Le dita armeggiano con i bottoni del cappotto. Dove andare? Appena fuori dall'istituto, col freddo autunnale sulla faccia, Bogdanov muove qualche passo per fermarsi subito con l'aria smarrita. Osserva il proprio fiato bianco che si volatilizza, a un ritmo accelerato dell'ansia. Deve rimanere calmo e ragionare. Ha detto a Natalia e a Kotick di restare nell'appartamento, sopra l'istituto, in caso Danny ritorni. Certo, andarsene in giro per Mosca, in cerca di una ragazza che sembra un ragazzo, della quale conosce soltanto il nomignolo e che afferma di venire da un altro pianeta, suona piuttosto assurdo. Perché è uscita senza dire niente? L'avrà sconvolta qualcosa che ha sentito durante il pranzo, come quando ha ascoltato la conversazione sui conigli. Cosa si sono detti a tavola? Natalia è tornata alla carica, con l'idea che Kotick si trasferisca da loro. Il ragazzo ha glissato, come sempre. Poi è rimasto con Danny, sì, mentre lui e Natalia preparavano il caffè. «Cosa le hai detto?» «Niente di particolare. Di qualcosa avrete pur parlato. Mi ha chiesto dove sono cresciuto, con chi?» In cucina, lui e Natalia avevano discusso fitto. Per l'ennesima volta le ha rimproverato le troppe premure verso il ragazzo. Il solito discorso. Se avessi rinunciato al mio impegno per stare con lui, se mi fossi ritagliato un'esistenza di micragnose certezze e consuetudini, avrei finito per scaricargli addosso la mia frustrazione, per incolparlo dei miei fallimenti e costringerlo a replicarli. Lo avrei condannato a crescere a mia immagine e somiglianza, come ogni rispettabile padre borghese. Perché non vuoi accettarlo? E perché tu non vuoi considerare che le tue scelte lo hanno comunque vincolato? L'unica cosa che Kotick ha potuto davvero scegliere è stato cosa studiare. E guarda caso, ha scelto anche lui medicina. Il panico gli impedisce di pensare. Vai a cercarla, non può essersi allontanata molto. Torna sui suoi passi e si appoggia al portone. Chiude gli occhi e scorge il volto di Anfusa, la madre di Kotick. Lo fissa da una certa distanza, come se avesse in serbo una domanda, un dubbio inespresso, che si è portata nella tomba. È qualcosa che lo riguarda e che non saprà mai. Per un attimo il ricordo vivido di quella passione travolgente lo investe e gli toglie il fiato. Riaprire gli occhi. Pensare. Pensare come Danny, mettersi nei suoi panni. Ti ha detto qualcosa? No, ho parlato soprattutto io. Cerca di ricordare, Kotick. Mi ha detto soltanto che non ha mai conosciuto suo padre e che è rimasta orfana di sua mamma. È corso a infilarsi il cappotto e il berretto per uscire a cercarla. Si stacca dal portone. E se non dovesse ritrovarla? Danny è indifesa, spaesata, eppure è arrivata a Mosca. Ha trovato l'istituto. Da qualunque posto sia saltata fuori, un orfanotrofio nel Caucaso o un'eteronave marziana, è riuscita a rintracciare l'autore di un libro pubblicato 20 anni fa. Quindi ha risorse inaspettate. Ma dove può essere andata? Kotick le ha parlato della propria infanzia. Questo deve averla fatta riflettere sulla propria origine. Mi ha soltanto detto che non ha mai conosciuto suo padre e che è rimasta orfana di sua mamma. Danny pensa di essere extraterrestre perché si sente un extraterrestre. Si sente sola, fin da quando la madre è morta. Si è costruita un mondo su misura per dare un senso a quella solitudine e per lo stesso motivo è alla ricerca del padre, un punto d'origine, mentre si racconta che nel suo mondo d'origine non ha alcuna importanza. «E perché tu non vuoi considerare che le tue scelte lo hanno comunque vincolato?» Bogdanov si volge all'intorno, con più calma. Poi la vede. La torre radio Shukov. In fondo, alla Shabolovka, la cima svetta sulle case. Danny gli ha detto qualcosa in proposito, pochi giorni fa, durante la loro passeggiata per il quartiere. Era un discorso a proposito di Parigi. In quella città c'è una torre simile, vero? Vuoi dire la torre Eiffel? La nostra è più bassa, è un'antenna radio. Bogdanov parte la disperata in direzione sud, proprio quando una neve fitta e leggera inizia a scendere sulla città. Cammina di buon passo, accennando un piccolo trotto di quando in quando e schivando i passanti. Il pinnacolo della torre non si avvicina mai e rimane lassù, conficcato nel cielo a prendersi gioco di lui. Deve fermarsi a riprendere fiato, attirando occhiate perplesse. Tu pensa se un tipo così distinto deve mettersi a correre come un ragazzino, rischiando di finire col culo per terra. Chi glielo fa fare? È per la malattia rara di Danny, per la scienza? Oppure per scoprire chi è davvero quella ragazza? O ancora è pietà umana, il desiderio di salvarla da se stessa? O è per Leonid, per sapere cosa ne è stato di lui e di tutti? Senza aver deciso quale sia la ragione, o se la loro somma sia un motivo valido, riparte all'inseguimento. Nell'ultimo tratto non si affretta più. Non ce n'è bisogno. Se l'intuizione si rivelasse sbagliata, non ce ne sarebbe una di riserva e potrebbe soltanto tornare sui propri passi. Ma Danny è là, seduta sul muro di sostegno della recinzione che circonda il gigantesco traliccio. Se ne sta come assorta o in preghiera, sotto il cappuccio del giaccone che le ha procurato Natalia, mentre i fiocchi le si posano addosso lievi. Bogdanov la raggiunge e si siede accanto a lei, contemplando le proprie orme sul bianco appena steso. «Perché sei venuta qui?» «Per vedere la torre», risponde. «Potevi dircelo, ci siamo preoccupati». «Tu e Natalia stavate discutendo. Non volevo disturbarvi. L'ho detto a Kotick, ma ascoltava le vostre voci attraverso la parete, invece della mia». Bogdanov soffia l'aria tra i denti. Almeno la faccenda ha un suo lato ridicolo. La grande struttura si eleva 150 metri sopra le loro teste. «È molto bella». «Bella e utile», commenta la ragazza. «In nakuniano abbiamo una sola parola che racchiude entrambi i concetti». «Quale parola?» «Adaet». «Adaet», ripete Bogdanov, assaporando il suono sulle labbra. «Mi piace. Forse dovresti insegnarmi il nakuniano». «E tu dovresti farmi conoscere meglio il tuo mondo», ribatte Danny. «Ci sono tante cose che non capisco». «Nemmeno io, se è per questo». Danny passa una mano sul cappuccio e osserva la neve che le rimane sulle dita, affusolate e un poco più lunghe del normale. Le porta alle labbra e succhia le gocce gelide. «Su Nakun non nevica più», dice. «Il clima è troppo caldo, la sabbia sta...» cerca la parola adatta, «mangiando la terra». «Sì», annuisce Bogdanov, «in Stella Rossa l'ho scritto. La rivoluzione ha risolto il conflitto tra i marziani, la lotta di classe, ma non quello tra i marziani e il loro pianeta. Per mantenersi in vita un sistema non può smettere di conquistare il suo ambiente. E quando anche l'ambiente circostante venisse tutto sottomesso e organizzato, si formerebbe un nuovo sistema, che scoprirebbe di avere un nuovo ambiente intorno a sé, e così via, finché l'intero universo non sarà a misura d'uomo. O finché non vi accorgerete che l'universo è più grande del previsto», lo gela Danny, «magari infinito». Bogdanov non ribatte, la lascia continuare. 100 anni fa, su Nakun, abbiamo smesso di mangiare animali, perché l'allevamento è crudele e consuma più energia di quanta ne restituisce. Poi abbiamo abbandonato le verdure, perché l'agricoltura intensiva è la madre del deserto. Adesso ci nutriamo di cibo sintetico, senza bisogno di acqua, fertilizzanti, antiparassitari. Peccato che lo si ottenga con reazioni chimiche che sviluppano calore, gas nocivi e scarti che non si possono riutilizzare. «E questo mette in pericolo anche noi terrestri», conclude Bogdanov. Il dibattito tra marziani sull'invasione della Terra a causa della prevista catastrofe ambientale è tra le pagine migliori di Stella Rossa. Anche un critico arcigno come Lunacharsky glielo ha riconosciuto. Danny guarda in alto. «Con l'aiuto di questa antenna credo che potrei inviare un messaggio, portare a termine la missione, farmi venire a prendere». Si volta, una luce di speranza nel viso simmetrico. Il suo gioco mentale ha una coerenza formidabile. Di sicuro saprebbe descrivere il modo in cui le onde radio potrebbero raggiungere i potenti ricettori del suo pianeta. Invece Bogdanov le domanda un'altra cosa. «Quale messaggio manderesti?» Danny non risponde subito. Ascolta il borbottio vago di qualche motore e il ronzio lontano dei tram. «Non lo so», ammette alla fine. «Chiederei più tempo, anche se è proprio quello che manca a Nakun. Dovremmo usarlo per condividere il sapere, noi e voi, trovare un sistema di comunicazione, organizzare viaggi regolari». Bogdanov annuisce. «Interplanetarismo, buona idea. Purtroppo temo che nessuna antenna terrestre possa inviare un segnale oltre i confini del sistema solare». «Non con i trasmettitori che usate voi», ribatte Danny. «Ma potrei costruirne uno adatto. So come funzionano le vostre radio. Potrei modificarne una per ottenere l'apparecchio che mi serve». Bogdanov si accarezza il mento. Il solito interrogativo. Assecondare o respingere queste richieste? Trafficare con circuiti elettrici e bobine è un passatempo per tante persone, a prescindere dall'utilità di ciò che ne viene fuori. Posso chiedere a Kotick di portarti la sua. Gliel'ho regalata per il diploma, ma sono mesi che nessuno riesce a farla funzionare. Kotick è un buon ragazzo, vero? Chiede lei, come se quella domanda fosse la prosecuzione più logica del discorso. Direi di sì, balbetta Bogdanov. Ti stima molto. Mi fa piacere. Hai generato altri figli? Strano modo di chiederlo. Sa di traduzione letterale dal nacuniano. Molti anni fa, Natalia e io abbiamo avuto un bambino, risponde Bogdanov. Morì poche settimane dopo la nascita. Poi ho avuto soltanto Kotick. Ma in realtà chi può dirlo? Potrebbe avere dei fratelli, passioni di un giorno soltanto, donne amate e perse di vista. Almeno che io sappia, aggiunge. Come Leonid, commenta Danny. Lui non sa di avermi generato. Meglio portare la conversazione su un terreno meno insidioso. Sai, ho scoperto che è andato in America prima della guerra. Danny si incuriosisce. È piuttosto lontano da qui, vero? Bogdanov annuisce, anche se lontano è un concetto relativo. Mi hai detto che sei stata nel posto dove ha vissuto, a Leningrado, e che non lo vedono da 20 anni. Però ha spedito lì il suo baule, forse intendeva tornare. O forse è morto in America e qualche buon'anima ha mandato indietro la sua roba. Un brivido lo avverte che il calore accumulato nella corsa si sta esaurendo. Anche Danny pare infreddolita. «Senti», riprende, «perché adesso non torniamo a casa a berci un tè? La luce cala, Natalia sarà molto in pensiero». Danny si alza, senza dire più nulla. Si avviano insieme, camminando piano, preceduti dalla nuvoletta del fiato. Prima di allontanarsi, Bogdanov si volta ancora verso la forma slanciata della torre con il pinnacolo stagliato sul cielo bianco. Bella e utile. Adet.